Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia della Domenica, questo Fuori Porta. Io sono Ilenia Sin, sono una giornalista e sono anche una delle voci della rassegna stampa di Sveglia. Al centro del Fuori Porta di oggi ci sarà Roma, il racconto di Roma e come ciò che genera nei lettori e negli ascoltatori viene in qualche modo utilizzato anche dal punto di vista economico dall'industria dei media. Roma è una città che si ama alla follia e che allo stesso tempo genera disprezzo, genera tutta una serie di polemiche legate ai suoi difetti e ai suoi problemi. A volte questi sentimenti coesistono all'interno della stessa persona. A me succede di amare e odiare Roma allo stesso tempo. Il punto è che il racconto di Roma coinvolge. Roma porta ad esprimere opinioni, polarizza, porta a dividerci, a discutere. Roma è un simbolo di grande bellezza, di corruzione. Roma è un modello, Roma è una macchina di significati. Prendo quest'ultima definizione da Antonio Pavolini, che è un analista dell'industria dei media ed è la persona che abbiamo intervistato per questo Fuori Porta. Io e Antonio ci siamo fatti una chiacchierata martedì scorso. Abbiamo parlato del racconto di Roma con questo taglio. Parlare di Roma funziona. Funziona per esempio per i partiti politici, ci sono partiti politici che hanno costruito una fortuna sull'odio nei confronti di Roma, ma funziona anche per l'industria dei media che guadagna presidiando l'attenzione dei lettori o comunque dei fruitori dei contenuti, dei propri contenuti. All'interno di questo meccanismo di presidio dell'attenzione che sta alla base dei modelli di business dell'industria dei media odierna, questo meccanismo, questa capacità di Roma di portare le persone ad esprimersi, a dividersi, a polarizzare, è sicuramente un elemento appunto che funziona e che è fondamentale, molto spesso con buona pace delle necessità di informarci e informative che i lettori di questi contenuti hanno. Ecco, quindi vi ripropongo la chiacchierata che ci siamo fatti martedì scorso. Eravamo in un luogo pubblico all'aperto, quindi si sentiranno delle voci sottostanti, ma non credo che diano fastidio. Invito chi avrà voglia e pazienza di ascoltare tutta questa chiacchierata a dirci che cosa ne pensa commentando sotto i nostri canali social. Ovviamente questo lo ricordo in modo costruttivo e senza dividerci e polarizzarci. Antonio Pavolini, analista dell'industria dei media, per una chiacchierata sull'informazione a Roma. Una chiacchierata che, rendiamolo trasparente, diciamolo a tutti, è nata da una precedente chiacchierata. Provo a sintetizzarla, ma poi ce la spiegherai meglio tu. Come Roma produca una sorta di narrazione emotiva, di contenuti emotivi che sono funzionali all'industria dei media, sono funzionali, funzionano per come, detta in soldoni, i media guadagnano. Non rubo altro tempo, ti chiederei proprio di partire da qui. Sì, con Leonardo Zaccone, che è un vostro validissimo collaboratore, oltre che un amico, abbiamo parlato per un po' del fatto che Roma rappresenta una specie di... io lo chiamo il bubbone nel racconto pubblico, perché quasi non ci si può mai girare intorno per un motivo o per l'altro, e è particolarmente funzionante per il modello economico dei media attuali, che non si remunerano più attraverso la qualità del contenuto, salvo chiaramente rare eccezioni che ci sono sempre. I media, l'industria si remunera attraverso, come dicevi prima, il presidio dell'attenzione. E nulla come Roma è capace di presidiare l'attenzione. Perché? Perché divide, perché polarizza, perché siamo tutti identitariamente schierati su Roma, perché ha a che fare con la nostra storia, con il nostro essere italiani in un modo o nell'altro, il nostro stile di vita naturalmente, Roma è entrata nelle vite di ognuno di noi, o comunque di conoscenti, amici. Molte persone sono venute a Roma con grandi aspettative e poi magari hanno dovuto cambiare città perché magari la città non dà una risposta economica. Cioè, per molti di noi Roma è un grande successo, per molti di noi è un grande fallimento, e questo a prescindere dalle fasi politiche. E quindi siamo tutti in qualche modo posizionati identitariamente su Roma. Per i media questa è una miniera d'oro. Perché? Perché l'industria tradizionale dei media, quindi giornali, radio e televisione, già facevano questo quando a un certo punto è diventata l'audience, la metrica del successo, e l'audience che si otteneva attraverso, ancora una volta, il presidio dell'attenzione e non certo la qualità del contenuto. Oggi, anche se si dice che i modelli economici siano cambiati con i nuovi media, la verità è che sono molto stretti parenti dei modelli precedenti, perché sempre in uno spazio ritagliato, chiuso all'interno di quello che dovrebbe essere uno spazio aperto, cioè internet, queste grandi piattaforme cercano di concentrare la nostra attenzione in luoghi dove possono controllare non più l'audience, diciamo, soltanto, ma proprio le interazioni, quindi i dati che liberiamo, che vengono rivenduti agli inserzionisti, e questa è la famosa ruota del criceto, quindi hanno in realtà tutto l'interesse a dividerci. E questo fa abbastanza ridere se pensiamo che quasi tutte queste piattaforme, ma anche quasi tutti i mezzi di informazione tradizionali, sono impegnati oggi a dirci che sono contro l'hate speech, che sono contro la polarizzazione, che bisogna superare questi problemi, e invece naturalmente predicano molto bene ma razzolano malissimo. E sì, Roma funziona per tutti i motivi che ho detto. Tu hai scritto da poco, circa un anno fa se non sbaglio, correggimi, un libro, vado a memoria, che si intitola... Sì, un pochino di più di un anno fa. Ok. Un libro che si intitola Unframing, come difendersi da chi decide quali notizie sono importanti per noi. Sto andando sì. A memoria. Com'era? Dunque, come difenderci da chi può stabilire più in generale cosa è rilevante per noi. Perfetto, ecco, grazie. A me dà l'impressione che questo modo di parlare di Roma, questo modo anche un po' emotivo, sia in qualche modo un'inquadratura che esclude, che quindi parla di temi reali, di questioni, problemi o qualunque notizia reale, ma che in realtà poi non riesce mai ad andare oltre la superficie, o comunque raramente riesce ad andare oltre la superficie. Io mi sono letta, provo a fare un esempio, magari ecco poi facci qualche esempio anche tu, così è ancora più chiaro per chi ci ascolta. Mi sono letta un articolo pubblicato sul Corriere pochi giorni fa, che era intitolato Rifiuti venditori abusivi, centro storico senza regole, che in realtà era la narrazione di ciò che il giornalista aveva visto in un'ora di passeggiata, due ore, tre ore di passeggiata in centro. Non c'erano però dati relativi al fenomeno dei venditori abusivi, non c'era il tentativo di delineare le cause di questo fenomeno o anche le modalità con cui risolverlo. Questo mi è sembrato proprio un tipo di articolo che invita ad esprimersi in merito ad una tematica, che invita magari anche a polarizzarsi, a discuterne, ma che informa poco. Ti chiederei appunto se questo modo di parlare di Roma in realtà ha più a che fare appunto con i nostri sentimenti che con le nostre necessità di essere informati. Sì, diciamo che ha a che fare con la capacità di far funzionare economicamente i nostri sentimenti. Mi spiego, un articolo come quello che dici online, ricondiviso per esempio sui social network, genera dei commenti, e nei commenti potete star certi che ci sarà a un certo punto qualcuno che tira fuori i cinghiali, qualcuno che tira fuori Roma ladrona, qualcuno che tira fuori magari la grande bellezza, non c'entra niente. Perché naturalmente appunto Roma funziona anche come un sogno che si può meravigliosamente, usando il mezzo cinematografico come ha fatto con maestria Sorrentino, no? Confezionare, perché funziona. Cioè tu prova a fare la grande bellezza con tanti altri luoghi nel mondo, non lo puoi fare, no? Per dire. Guarda, il fatto del framing mi sembra molto importante come discriminante, cioè bisognerebbe allenare l'occhio e riuscire a capire in anticipo quando è che ci troviamo di fronte a questo problema. E il caso che hai fatto è molto efficace, l'esempio che hai fatto, ma anche a me viene in mente, non so se ricordi, quando Simone, il ragazzo di Torre Maura, rispose durante quella manifestazione di Casa Pound, in qualche modo rompendo lo schema mediatico che era apparecchiato, perché naturalmente l'estrema destra voleva cavalcare la protesta nel quartiere, ma lui mostrò un volto del quartiere che in quel momento ai media non serviva, però in quel momento ha anche determinato un'opportunità per l'altra parte, che ha subito provato ad appropriarsi, no, dell'eroe, del ragazzino che riusciva a smentire, e quindi di nuovo da un frame all'altro, cioè non si passa mai, come dici tu giustamente, a quel minimo di lavoro, no? La raccolta dei dati, la capacità di porre le notizie in un contesto che non sia appunto questo contesto di superficie, tant'è che poi quel lavoro lì finisce per non essere più il lavoro del giornalista tradizionale, ma magari il lavoro di chi fa il sito Mappa Roma, per dire, no? Che mette insieme un sacco di notizie senza dover scrivere un articolo. La nostra capacità ormai si sta spostando sulla possibilità di trovare notizie, leggerle e farci un'idea, più partendo da quello che gli anglosassoni chiamano il data journalism, che da queste narrazioni che funzionano molto bene economicamente, ma che col giornalismo non hanno molto a che vedere. E quali sono, secondo te, le conseguenze di questa... Tu nel libro On Framing, lo ricito, scusami, avevamo detto di non parlarne troppo, ma lo ricito, parli più che di rivoluzione digitale, se non ricordo male, di transizione. Che conseguenze ha questo approccio? Beh, non dobbiamo assolutamente considerare questa fase un po' balcanizzata dell'informazione come la fase definitiva, cioè l'approdo di una rivoluzione compiuta, la rivoluzione digitale. No, siamo, semmai, i problemi che noi vediamo oggi sono i problemi della transizione, cioè del passaggio da un mondo a un altro, e nel cambiamento ci sono molti che rimangono spiazzati, a cominciare appunto dal giornalismo tradizionale, che poteva scegliere tanti modi per riposizionarsi, per esempio fare quadrato intorno alle professionalità, alla capacità del giornalista classico, no? Di trovare degli strumenti, di mettere a disposizione delle persone gli strumenti per farsi un'idea sulle cose, e invece che fare questo, presi soprattutto dalle ristrettezze economiche, quindi dalla crisi economica dell'industria, si finisce per copiare paradossalmente il modello della piattaforma elettronica sul terreno dove sei sicuro di essere sconfitto. E questo un po' mi ricorda quello che accadde negli anni 80 alla RAI, quando si trovò di fronte a un elemento di cambiamento, l'esplosione della televisione commerciale, invece di fare quadrato sul servizio pubblico, come hanno fatto i servizi pubblici di tanti altri paesi, in Germania, in Inghilterra, naturalmente la BBC, che non ha neanche la pubblicità, eccetera. No, alla RAI fu detto che bisognava competere sul piano dell'audience. Quindi continuiamo a prendere il canone, però facciamo guerra sulla pubblicità, e così oggi ci ritroviamo con un servizio pubblico che somiglia per tanti versi a una televisione commerciale. Allora, ogni volta che c'è una discontinuità nell'industria improvvisa, si crea, come dire, un momento di crisi di identità, no? Dei vari soggetti, e purtroppo sono ancora in larga minoranza i soggetti che stanno davvero cambiando un po' le regole del gioco in questo momento. Ti faccio un'altra domanda, sempre guardando al settore dell'informazione a Roma, perché non vorrei che questa nostra chiacchierata poi finisca col far pensare a chi ascolta che è tutta colpa del digitale, che è tutta colpa del web e dell'informazione online. Perché c'è un po' questa idea, io ho lavorato tanti anni per un giornale online e c'era un po' l'idea che il cartaceo era ancora il giornalismo, rappresentava ancora il giornalismo tradizionale, mentre i media online erano il male assoluto e le piattaforme online erano il male assoluto. D'altro canto però anche i mezzi di informazione online non mi sembra che si stiano dimostrando più avanti dei mezzi tradizionali, e quindi ti chiederei anche di darci un po' un quadro. Vabbè, il quadro è estremamente variegato, nel senso che ci piacerebbe poter semplificare e dire, per esempio, che se devi pagare il contenuto è migliore. In questo momento non è necessariamente così. Forse potrebbe essere così se esistessero modelli di paywall online, mi scuso per usare questo anglicismo, cioè quando tu fondamentalmente i primi 10 articoli scritti bene ti piacciono così tanto che a un certo punto, per vedere l'undicesimo articolo che sarebbe a pagamento, sei disposto ad abbonarti, no? Che è quello che succede col New York Times. Qui da noi non funziona così, qui da noi, come dici tu, l'online è considerato spazzatura, quindi anche il quotidiano, anche il grande quotidiano, quando ha le sue notizie gratuite a disposizione, compone un collage che è consapevolmente infotainment, ok? E non è vera informazione, ed è schiavo quindi di meccanismi come il clickbaiting. E la cosa paradossale è che questo tipo di informazione degradata dovrebbe convincerti poi a acquistare un abbonamento per entrare nel mondo di quella che poi ti vendono come la buona informazione. Ecco, questo non, in Italia ancora non si riesce a fare questo passaggio, e sto parlando delle grandi redazioni. Paradossalmente alcune redazioni più piccole, però bene organizzate sul territorio, e faccio l'esempio adesso di Roma Today, ma me ne vengono tante altre, finiscono per rendere un servizio migliore alla città proprio perché si stanno guadagnando ora una credibilità sulla qualità quantomeno del reporting, ok? Non sarà grandissimo giornalismo, ma è qualcosa che oggi è difficile trovare sui siti online dei grandi quotidiani. Torniamo un po' a Roma e alle emozioni che suscita. Questa narrazione, chiamiamola così, non so se è la parola più adeguata, di Roma non è nata adesso con l'informazione online e i social. Mi vengono in mente tantissimi esempi. Tu prima citavi La grande bellezza, però ecco, non è sicuramente il primo film che mette Roma al centro della propria scena, sia in positivo sia in negativo. Mi vengono in mente anche importantissimi lavori giornalistici che hanno reso Roma simbolo di tutta l'Italia. Mi viene in mente per esempio Capitale corrotta, Nazione infetta, che è una grandiosa, è una grande e importante inchiesta sulla speculazione urbana ed edilizia a Roma, che ha trasformato Roma in un simbolo dell'intera nazione. Anche se mi permetto una battuta, oggi un'inchiesta del genere dovrebbe combattere per attirare l'attenzione insieme ai cinghiali e alle macchine rovesciate. Esatto, e a notizie di... Non arriveremo mai neanche a quel livello di dettaglio, cioè non potremo fare un investimento emotivo in una cosa così complessa, sarebbe giudicata paradossalmente perdente dal punto di vista economico. Esatto, quindi io ti volevo chiedere, quindi oggi che cosa cambia? Ma allora, come dicevamo prima, lo spettro emotivo che Roma è capace di attivare in ciascuno di noi, quindi lo spettro identitario e quindi le polarizzazioni, è così ampio da premiare, mi dispiace dirlo, non solo, tra virgolette, l'informazione spazzatura su Roma, quella che vuole scatenare i nostri più bassi istinti, ma paradossalmente noi dovremmo essere molto sospettosi anche nei confronti di certe alte operazioni letterarie che magari coinvolgono intellettuali molto onesti, no, nel partecipare, no? Io penso per esempio alla seconda edizione di quella di La Terza, del volume Contro Roma, no? A cui ha partecipato anche il nostro sodale Christian Raimo, tutti con grande onestà intellettuale. Il problema è che non so se esattamente come la prima volta, no? Quando Bompiani mise insieme dei grandi intellettuali nel 73 con l'analoga operazione Contro Roma, non so se il lettore oggi è abbastanza smaliziato da rendersi conto che è troppo facile, ok, che poi venga strumentalizzata un'operazione di questo tipo, che è troppo facile arrivare poi a generare automaticamente un'ondata di consenso disinformato intorno all'idea di, per esempio, Roma ladrona. Cioè, intorno a questa idea sono state costruite delle operazioni di consenso gigantesche, intere narrazioni che tengono ancora oggi in ostaggio non solo la città, ma l'intero paese. Finiamo spesso anche per definirci per differenza rispetto a Roma, così come ci si definisce per differenza, se è un fenomeno abbastanza internazionale, no? Il newyorkese si definisce per differenza rispetto a Washington, che è la città, la Sin City della politica, no? La città del peccato, della corruzione, dell'indolenza e dell'incapacità di produrre valore, no? Allora, Roma ha, e voi di Sveglia ne sapete parecchio, una quantità di energie intellettuali, mi verrebbe da dire anche scientifiche, considerate insomma la presenza di tantissimi atenei ma anche artistiche, culturali, che sono completamente neglette e ignorate. Mi sono trovato un mese fa a un evento organizzato al Teatro di Roma, al Teatro Argentina, in cui erano coinvolti vari attori del bellissimo spettacolo di Populizio sul libro di Scurati. Lui, così commentando, sapeva di ottenere rapidamente il consenso e l'applauso della platea, dicendo che a Roma la scena teatrale è paragonabile a quella del Botswana. Ora, io se fossi una persona del Botswana mi sarei molto molto offeso da questo paragone. Però al di là di questo, la facilità con cui si ottiene consenso sparando a zero su una scena culturale che chiaramente dal punto di vista istituzionale è in crisi e lo sappiamo, ma come ti dimostra per esempio il programma che fa il sabato Leonardo quando parla della scena culturale a Roma, c'è una ricchezza straordinaria che semplicemente non è censita. Non è censita perché non fa sistema, non è censita perché non serve ai media, non è censita per tantissimi motivi. Però non possiamo dire che Roma è un deserto culturale, cioè questo è veramente quella che oggi chiameremo una fake news. Io sto sempre molto attento a usare il meno possibile questo termine che non mi piace. Però è una notizia falsa che Roma è una città morta culturalmente. Io proverei a raccontare tutto quello che ci siamo detti fino adesso con un esempio, cioè questa reazione immediata che spesso i giornali hanno di fronte a dei fatti, semplici fatti anche di cronaca, e della capacità poi del modo di raccontarli, di trasformarli appunto in momenti che polarizzano, che dividono, che fanno discutere, che creano un'onda emotiva di qualsiasi genere. Non so se hai qualche esempio che ci potresti portare. Ma guarda, io ricordo che durante la pandemia a un certo punto cominciò a circolare in rete il video di due operatori sanitari di un'ambulanza, due autisti di un'ambulanza che avevano un accento chiaramente non romano e che pubblicarono questo video delle lunghe code che si erano create in piena pandemia, quindi in pieno lockdown, sul raccordo anulare nel weekend di Pasqua, e cominciarono a insultare i romani per il fatto di ignorare le regole e di intasare le strade che invece servivano naturalmente agli operatori sanitari. E questo video venne immediatamente ripreso dalla homepage di Repubblica e durante il giorno subì, diciamo, tutta una serie di trasformazioni in tempo reale. Questo ti dimostra proprio la capacità di queste situazioni di generare tanti microscoop, perché chiaramente loro puntano, chi gestisce un sito di un grande quotidiano punta sulle eyeballs, cioè gli occhi delle persone che si posano su una certa pagina. E quindi nel corso della giornata è stato all'inizio l'indignazione contro i romani che scatenava poi le reazioni dei romani. Poi successivamente il Corriere della Sera dimostrò che quello che era accaduto era per via dei posti di blocco sul raccordo anulare che erano stati creati proprio per fermare le macchine che non avevano l'autocertificazione o che non ne potevano produrre una reale, riducendo lo spazio da 4 corsie a 3, una situazione che insomma chiunque viva a Roma sa che genererebbe ingorghi infiniti, per come mettere un muro sul raccordo anulare. Quindi non era quella la causa, e poi si scatenò la rivolta social dei romani contro questa narrazione falsa. Insomma, a fine giornata il titolo di Repubblica cambiò e divenne Rivolta Social, cioè ci si poteva di nuovo indignare contro la mobilitazione su un fatto che era partito come un fatto falso. Cioè, invece che scusarsi, no, per aver dato una notizia non verificata, non accurata, si gioca di nuovo sulla polarizzazione, sulla contrapposizione. Questo è un processo che succede quasi, non dico quotidianamente, però a Roma è ormai una sorta di ciclo di vita del contenuto. Un sito, comunque una pagina Facebook che ha fatto di questa polarizzazione, di questo... E di questo anche criminalizzazione, forse una parola grossa, anche se in alcuni casi si arriva anche a questo, del modo di essere romani, dei romani, mettiamola così, è Roma fa schifo, che sanziona in continuazione i comportamenti più disparati e che spesso, diciamolo, arriva anche ad accomunare fenomeni totalmente diversi, come il problema della povertà e dei senza tetto, al problema dei rifiuti. Può essere un esempio valido quello di Roma fa schifo? Ma assolutamente sì, nel senso che è un'operazione editoriale brillantissima, cioè se apri un blog che dà sfogo a questo tipo di notizie, che poi poggiano in tantissimi casi anche su problemi reali, cioè non vogliamo assolutamente essere autoassolutori e raccontare una Roma meravigliosa dove tutto funziona perfettamente, no, a Roma ci sono gravi problemi, però questo tipo di narrazione tossica è un problema nel problema. Perché? Perché quello che succede è che ogni singolo romano fondamentalmente è convinto, adesso sto facendo una generalizzazione, che se tutti si comportassero come lui, Roma sarebbe Stoccolma, funzionerebbe perfettamente. E quindi quando c'è qualcosa di visibile non è mai fondamentalmente colpa di chi lo segnala. La segnalazione è come chiamarsi fuori dal problema, è come dire io sono parte della soluzione, non sono parte del problema. Cioè, invece del riflesso comunitario che magari ci potrebbe essere in una città di provincia, per cui c'è anche un po' di orgoglio, no? Di appartenenza a una certa comunità, fondamentalmente il romano è convinto che tutti gli altri romani siano incivili, e un sito come quello di Roma fa schifo funziona perfettamente in questo senso. Un altro dei temi ricorrenti su Roma fa schifo, e non solo, anche sui giornali romani o comunque nell'idea che i romani hanno della città e nel racconto della città, è quello di una città che non riesce ad attrarre investimenti, è quello di una città dalla quale le attività produttive scappano. Questo è un tema che ricorre ciclicamente. Secondo te è realmente così? E se anche questo modo di affrontare l'economia e la parte, il funzionamento della città ha a che vedere con quello che noi ci aspettiamo e quello che eventuali lettori si aspettano dal racconto della città? Ma allora, una città che ha 2700 e passa anni di storia, è chiaro che ha delle fasi cicliche di 20 anni che sembrano un'inezia. Soltanto 20 anni fa c'erano delle amministrazioni comunali qui a Roma che parlavano di modello Roma, cioè la narrazione mediatica parlava di Roma come di un modello a cui ispirarsi. Era abbastanza ridicolo allora, ed è oggi anche abbastanza ridicolo dire che Roma fa fuggire sempre tutti gli investimenti. Insomma, basta vedere quello che importantissimi marchi della moda stanno facendo con grossi investimenti immobiliari nel centro di Roma proprio in questi giorni. Ma adesso non voglio parlare di real estate, perché non è questo il mio campo. Quello che dico è che se guardiamo finalmente Roma un po' da lontano, come si fa guardando le famose mappe su cui insomma tante iniziative interessanti si stanno sviluppando a Roma, se la guardiamo con il cannocchiale rovesciato ci rendiamo conto che è una città che dovrebbe in realtà non essere vista in opposizione con le altre città che attraggono investimenti a Roma, come in Italia, come per esempio Milano. Roma e Milano fanno automaticamente sistema, ne ha parlato molto bene anche Alessandro Giglioli in una precedente puntata domenicale di Sveglia, anzi invito tutti ad ascoltarla, perché Alessandro, avendo vissuto più di 20 anni, 30 anni in entrambe le città, ha davvero una visione molto completa di questo dualismo. Ma in realtà è un dualismo che potenzialmente è un sistema, sono due città a 2 ore e mezza di distanza, tant'è che quando ci fu la grande fuga da Roma qualche tempo fa, e per esempio le persone che lavoravano in Sky furono trasferite in larga misura da Via Salaria a Milano, però furono trasferiti dove? A Milano Rogoredo, dove il treno arriva in 2 ore. Così come quando BNP Paribas apre un grande centro direzionale a Roma, dove lo apre? Lo apre a Roma Tiburtina, perché deve fare sistema con la grande dorsale che collega le altre grandi città italiane. Quindi dobbiamo sfuggire da questa visione davvero provinciale, per cui le città, diciamo, tendono alla cannibalizzazione reciproca. Questo paradossalmente funziona molto di più per i capitali, diciamo così, opachi, no? Quelli per le grandi masse di denaro che di volta in volta vanno a investire là dove è più facile far funzionare rapidamente, per esempio, il riciclaggio, no? Però per l'economia reale, un'economia reale si fonda ormai su sistemi complessi, su sistemi geograficamente più ampi, te lo dimostra per esempio il Giappone, no? Dove anche lì i treni proiettili rendono il sistema urbano praticamente un sistema unico. Hai parlato del modello Roma. Parlare di Roma in positivo era quasi come un problema allo stesso modo come lo è oggi, parlare di Roma in negativo. E allo stesso modo però è vero che Roma in Italia spesso viene appunto trattata male, mettiamola così, soprattutto in relazione a questa presunta sfida con Milano, che non si sa bene dove stia e chi l'abbia inventata. Però allo stesso tempo Roma come modello, più che come modello, come simbolo e come immagine basta a se stessa. Nel senso che nel mondo basta dire vengo da Roma e non c'è, credo, nessuna persona che non capisca da dove vieni, e anche questo può essere sfruttabile dal punto di vista economico, immagino. Ma sì, diciamo che Roma ha una caratteristica che non funziona per il sistema dei media, cioè il fatto di non essere una città aspirazionale, cioè non è una città che di volta in volta si pone dei modelli, non prova ad essere Londra, non prova ad essere Dubai, non prova ad essere New York, perché appunto, come dicevi, basta a se stessa, e francamente se si trasfigurasse completamente probabilmente causerebbe anche del disagio nella visione mondiale, no? che si ha nei confronti di Roma. Invece le altre città italiane, trasformandosi, e questo sicuramente è un bene ed è un problema per Roma, no? Avere anche in realtà questo immobilismo, cinismo, no? Che la blocca alla sua identità, le altre città trasformiste, diciamo così, funzionano molto meglio per i media. È possibile costruire un'operazione di trasformazione su delle città che vengono così viste come dinamiche. In realtà, paradossalmente, l'immobilismo di Roma consolida l'identità di Roma e quindi la capacità della città di costruire ancora di più su questa immensa stratificazione di significato e di senso che ne fa la capitale, in realtà, appunto, dei contenuti, della conoscenza. Purtroppo mi verrebbe da dire anche del cinema, no? Dove Roma straborda, è onnipresente e causa giustamente, io credo, anche una crisi di rigetto. Se vedi in qualsiasi film prodotto in Italia questo modo di parlare, questa geografia dello stile di vita dei romani, e questo succede, lasciatemelo dire, sia dai prodotti, diciamo, un po' più commerciali, tipo la serie Suburra, no? Con le sue macchiette, con il suo racconto, no? Anche abbastanza semplificato, fino a prodotti cinematograficamente molto molto importanti, tipo penso a Favolacce, no? Che racconta straordinariamente anche il male nascosto nel disagio delle periferie di Roma. Però purtroppo anche lì si va a scavare nello spettro emotivo, nella capacità di Roma di causare reazioni. Oggi, francamente, se io dovessi scrivere un romanzo e volessi vincere un grande premio, beh, un'operazione che mi verrebbe in mente è quella di prendere un caso di cronaca e giustificarlo spiegando tutto il male che c'è nella città, cioè quasi chiamando in correità tutta la città. È un'operazione che, lasciatemi dire, io credo anche in onestà intellettuale, è stata compiuta, è stato scritto un bellissimo libro, però bisogna avere, noi come lettori, la malizia di riuscire anche a guardare oltre questo diaframma di distorsione, no? Rispetto a queste operazioni che sono anche legittimamente delle operazioni commerciali. Ti chiederei, per chiudere, qualche consiglio per sia gli ascoltatori di Sveglia, che poi sono anche, immagino, dei cittadini di questa città e dei lettori dell'informazione di questa città. Quando si ritroveranno di fronte a un contenuto dall'alto, contenuto, scusate la ripetizione, emozionale, secondo te come si dovranno comportare? Portare, come difendersi? Allora, io credo che l'ascoltatore di Sveglia sia automaticamente già molto selezionato, e il fatto stesso di voler ascoltare una chiave interpretativa come le vostre rassegne stampa, che vanno ben oltre la carta stampata e vanno a indagare anche fonti di informazione considerate secondarie, ecco, cioè io credo che l'ascoltatore di Sveglia non abbia bisogno di tantissimi consigli. Il problema magari è la grande quantità di persone che in automatico, senza nemmeno rendersene conto, ormai chiedono al mezzo di informazione fondamentalmente di essere intrattenuti. È un meccanismo, in realtà, cioè c'è una forma di in realtà c'è una sorta di alleanza non scritta. È anche il consumatore di contenuti che vengono venduti come contenuti informativi che in realtà chiede quello, cioè chiede di farti passare 10 minuti a ridere dei cinghiali, a ridere del cassonetto rovesciato. L'importante è che non sia colpa tua, cioè l'importante è che non ci sia un investimento emotivo che deve essere fatto e che si possa in realtà scatenare la rabbia verso un ipotetico romano medio che non cura la città, che non ama che non ama lo spazio pubblico. Si parla tantissimo dell'importanza dello spazio pubblico a Roma e, come diceva giustamente Alessandro Giglioli, a proposito del vero grande problema che abbiamo in questa città, non abbiamo rispetto per lo spazio pubblico, abbiamo una cura magari degli spazi privati, ma tutto quello che è fuori dalla porta di casa, che è condiviso con qualcuno, è in qualche modo condiviso con un nemico, con qualcuno che non se lo merita, ad incrociare il nostro sguardo, il nostro passo. E questo sì, sicuramente è un grosso problema della città, e quindi dobbiamo dotarci, leggendo queste storie, sia della malizia, sia della comprensione del meccanismo economico che dicevamo prima, ma anche un po' di quella sorta di civismo nell'ecologia dell'informazione, che è importante per far sì che un mezzo di informazione diventi uno strumento per guardare la città con altri occhi e quindi magari essere in condizione di migliorarla, non necessariamente superando la democrazia rappresentativa e mettersi insieme e sistemare il giardino della piazza, no? Come molto volenterosamente fanno i retake, eccetera, però bisogna anche cominciare a pensare in questo modo di rendere popolare, di rendere un aggregatore di consenso una visione della città diversa, e quindi far sì che magari un politico sia meno populista, uno che possa vincere le elezioni sia meno populista, perché non deve cavalcare il medium dell'indignazione o il medium dove la colpa è sempre di qualcun altro. Questa era l'intervista ad Antonio Pavolini, che ringrazio. Il Fuori Porta della Domenica di Sveglia finisce qui. Io vi invito ad ascoltare la rassegna stampa di Sveglia tutte le mattine. Domani mattina, lunedì 9 maggio, ci sarà Angela Gennaro. Vi invito anche ad iscrivervi ai nostri canali social, alla nostra newsletter su Substack o, per chi lo preferisse, al canale Telegram. Infine, vi ricordo che Sveglia è un progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Charlemagne e di Guido Larker. Buona domenica a tutti e a tutte.